evitare il superfluo nel cibo e nel vestiario. Per gli altri momenti, poi, il miglior farmaco per custodire la castità è il logos, ma è di aiuto anche il non mangiare fino a sazietà, a causa della quale la concupiscenza si gonfia e comincia a corteggiare la voluttà. Non si devono ricercare neppure vesti lussuose né cibi raffinati. Il Signore stesso, dividendo i suoi precetti in tre categorie, quelli concernenti l'anima, il corpo e infine le cose esteriori, ci raccomanda di procurarci le cose esteriori solo in funzione del corpo e di governare quest'ultimo tramite l'anima. E quanto all'anima, il pedagogo la educa così, dicendo: «Non preoccupatevi per la vostra anima di quel che mangerete, né per il vostro corpo di quel che indosserete. L'anima, infatti, è più importante del cibo e il corpo del vestito». E a questo suo insegnamento aggiunge poi un esempio luminoso. Pensate ai corvi, che non seminano e non mietono, non hanno depositi né granai, e Dio li nutre. Ora, non valete voi forse più degli uccelli? Questo per quanto concerne il cibo. E riguardo ai vestiti, che rientra nella terza categoria, quella delle cose esteriori, dà raccomandazioni simili dicendo: «Pensate ai gigli, che non filano e non tessono, eppure io vi dico che nemmeno Salomone si vestiva come uno di essi». E certamente il re Salomone era ben fiero della sua ricchezza. Che cosa vi è di più bello e di più rigoglioso dei fiori? Che cosa vi è di più incantevole dei gigli o delle rose? Ebbene, se l'erba che oggi è nei campi e domani verrà gettata nel forno, Dio la riveste così, quanto più voi, uomini di poca fede. Non cercate dunque quel che mangerete e quel che berrete. Qui il termine «quel che ti» indica l'esclusione della raffinatezza del cibo. Il significato che si ricava dalla scrittura è questo: non preoccupatevi di che genere di cose mangerete o berrete. Preoccuparsi di ciò, infatti, è avidità e voluttà. Il semplice mangiare, invece, inteso in quanto tale, testimonia la necessità, ovvero, come già dicemmo, il soddisfacimento di un bisogno. Quel ti, al contrario, deriva dal desiderio del superfluo, e il superfluo viene dal diavolo, come ricorda la scrittura. Questa parola aggiunta rende quindi molto chiaro il concetto. Dopo aver detto, infatti, «non cercate quel che mangerete e quel che berrete», prosegue: «e non siate altezzosi». Sono l'ostentazione e la voluttà che rendono altezzosi e portano via dalla verità, poiché la passione per i piaceri, essendo tutta intenta alle cose superflue, allontana dalla verità. Per questo dice assai bene: sono le nazioni del mondo che cercano tutte queste cose. Le nazioni sono gli indisciplinati e gli stolti. Ma che cosa intende con queste cose? Intende i piaceri, la voluttà, le squisitezze, i piatti raffinati, la golosità. Queste cose sono espresse da quel ti. Quanto invece al semplice nutrimento, secco o umido, essendo comunque necessario, il Padre vostro, dice, sa che ne avete bisogno. Se dunque la nostra natura è di essere dei cercatori, non guastiamo la nostra ricerca inseguendo i piaceri, ma riattizziamola piuttosto per trovare la verità. Cercate prima, dice, il regno di Dio, e le cose relative al cibo vi saranno date in aggiunta. Se dunque già dal vestiario e dal cibo e dalle altre cose del genere vuole che si escluda completamente ogni affanno in quanto non necessario, che cosa si deve pensare che dirà riguardo alla passione di adornarsi, alla tintura delle stoffe, alla varietà dei colori, alle pietre intarsiate, all'oro lavorato, ai riccioli sistemati ad arte, alle chiome intrecciate e legate a spirale, nonché al trucco degli occhi, alle depilazioni, all'uso di belletti e cerette, alla tintura dei capelli e a tutti gli altri malsani artifici d'inganno? La citazione fatta poco più sopra riguardo all'erba che oggi è nel campo e domani verrà gettata nel forno non va forse intesa anche in riferimento a questi indecorosi amanti del decoro e del trucco? Il mondo è un terreno coltivato e noi siamo la verdura, innaffiati dalla grazia di Dio e tagliati ricresciamo, come verrà spiegato più diffusamente nel trattato sulla risurrezione. L'erba rappresenta allegoricamente la massa del volgo abituata a vivere in una gioia effimera, gente che fiorisce per breve tempo amante degli ornamenti, della vanagloria e di tutto fuorché della verità. Non è utile a niente se non a servire come combustibile per il fuoco eterno. C'era un uomo, narra il Signore, che era molto ricco, si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si godeva la vita splendidamente. Questi era l'erba. Vi era poi un povero, di nome Lazzaro, che giaceva coperto di piaghe alla porta del ricco, bramoso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco. Questi era la verdura. Ora l'uno, il ricco, fu castigato nel fuoco dell'inferno, l'altro rifiorì nel seno del padre. Io ammiro l'antica città di Sparta che alle sole etere permetteva di usare vesti decorate e ornamenti d'oro, eliminando così dalle donne oneste l'amore degli ornamenti per il fatto stesso di dar licenza di imbellettarsi a quelle sole che si prostituivano. Tra gli ateniesi, invece, le autorità, che amavano uno stile di vita cittadino, dimentichi della virilità, si ornavano con oro e indossavano abiti lunghi fino ai piedi, e poi annodavano sul capo il crobilo, che è una sorta di treccia, ornandolo con spille d'oro. In tal modo davvero rendevano manifesto con questo cattivo gusto da effeminati il loro essere terrigeni. L'affettazione di questi aristocratici contagiò poi anche gli altri ionici, che Omero infatti considera effeminati e li chiama dai lunghi pepli. Bisogna espellere, lontano dalla verità, coloro che si rivolgono non al bello in sé, ma ad un'immagine, eidolon del bello, cioè all'amore per gli ornamenti, e così sotto un nome splendido, sono in realtà idolatri di tale immagine. E con l'opinione, non con la conoscenza del vero, che essi perseguono con i loro sogni la natura del bello. La vita di quaggiù è per essi un profondo sonno di ignoranza, dal quale invece bisogna che noi ci svegliamo per affrettarci verso ciò che è realmente bello e adorno, cosmion. Solo questo infatti dobbiamo desiderare di raggiungere lasciando perdere le cose di questo mondo, cosmia, insieme al mondo stesso, prima di entrare definitivamente nel sonno. Dico dunque che l'uomo non necessita dei tessuti se non per coprirsi il corpo, con lo scopo di proteggersi dal freddo eccessivo o dal caldo intenso, affinché gli squilibri del clima non gli rechino qualche danno. Se dunque questo è lo scopo del vestito, bada che non se ne stabilisca uno per gli uomini e uno diverso per le donne, poiché entrambi hanno in comune il doversi coprire, allo stesso modo che il mangiare e il bere. Se pertanto l'esigenza è comune, riteniamo che debba essere simile anche la fattura. Infatti, come ad entrambi è comune il bisogno di coprirsi, così bisogna pure che ciò con cui ci si copre sia simile. Se no, si deve prendere qualcosa che copra ciò che è necessario nascondere agli occhi delle donne. Il genere femminile, è vero, a motivo della sua debolezza, ama l'abbondanza e la varietà nei vestiti, ma è da condannare l'abitudine, frutto di una cattiva educazione, per cui spesso certi uomini, allevati in pessimi stili di vita, diventano più effeminati delle donne. E in ciò non bisogna attenuare il rigore. Evitare l'uso della seta, delle vesti tinte e di ogni lusso. E seppure è necessario scendere a compromessi, si può concedere alle donne, in piccola misura, di usare vesti più morbide, purché solamente si bandiscano via lontano quelle stolte piccole decorazioni e le stravaganti piechettature nei tessuti e si dia l'addio ai fili d'oro, alle stoffe indiane e alle sete ricercate. Dapprima nasce un verme, da questo si evolve un bruco villoso e poi con una terza metamorfosi si crea un baco, che chiamano crisalide, dal quale si produce un lungo filamento simile alla ragnatela. Questa materia superflua e trasparente denuncia in chi la utilizza una mente senza vigore. Con la sua leggera copertura non fa che prostituire la vergogna del corpo. Un vestito così delicato, infatti, non copre e non riesce a nascondere la sagoma della nudità. Esso, gettato sul corpo, gli aderisce mollemente e si adatta perfettamente alla carne. percorre le forme della donna, tanto che tutto il suo corpo, pur non essendo visibile direttamente, è però completamente manifesto. Bisogna eliminare anche la tintura dei vestiti, che è cosa lontana dall'utilità e dalla verità, e inoltre fa nascere sospetti riguardo alla condotta morale. Non vi è utilità nell'uso di vesti tinte. Non hanno alcun vantaggio contro il freddo, né hanno qualcosa in più rispetto agli altri vestiti per coprire meglio. Hanno in più solo il biasimo. Il fascino dei colori, poi, è un pungolo per gli avidi curiosi e li eccita a un guardare irragionevole. La cosa più idonea, invece, per chi è candido dentro e non adulterato, è di usare vesti candide e non ricercate. Con chiarezza e limpidezza, il profeta Daniele dice: «Furono collocati dei troni, e si assise su di essi uno come antico di giorni, e il suo abito era bianco come la neve». È il Signore che egli contempla nella visione, vestito con bianche vesti. Anche l'Apocalisse dice: «Vidi sotto l'altare le anime di coloro che avevano reso testimonianza, e a ciascuna fu dato un abito bianco». Ma se proprio si deve cercare qualche altro colore, ci si accontenti allora della tintura della verità, cioè di quella naturale. Quanto ai vestiti, che assomigliano a mazzi di fiori, li si lasci ai deliranti delle orge bacchiche e iniziatiche. Inoltre, come dice il poeta comico, la porpora e l'argenteria servono agli attori tragici, ma non alla vita quotidiana. E bisogna che la nostra vita sia tutto fuorché una sfilata da teatro. La tinta di sardi, quella di uva acerba, il verde chiaro, il rosato, lo scarlatto e infinite altre tinte, sono state escogitate con gran zelo dal rovinoso amore dei piaceri. Tali vestiti servono non a coprirsi, ma a guardarli. Le stoffe intessute d'oro, quelle tinte di porpora, quelle ornate con figure animali, mosse al vento, sono indubbiamente una delizia. E poi i tessuti tinti e profumati di zafferano e gli abiti ricchi e variegati, confezionati con pelli preziose e decorati in porpora con motivi animali, sono tutte cose a cui bisogna dire addio, insieme alla loro arte. Quale cosa sensata o splendida potremmo operare noi donne che stiamo sedute, dice la commedia, tutte infiorate, vestite di zafferano e imbellettate. Il pedagogo ci esorta con chiarezza: non inorgoglirti per la veste che ti avvolge e non insuperbire per la gloria esteriore che è impermanente. Dice poi nel Vangelo, rimproverando quelli che indossano abiti delicati: ecco, coloro che vivono tra vesti sfarzose e godimenti stanno nelle dimore dei re. Si riferisce alle dimore regali terrene che sono corruttibili e nelle quali regna la seduzione di una falsa bellezza, l'ambizione della gloria, l'adulazione e l'inganno. Coloro invece che sono servitori del re dell'universo alla corte celeste si santificano nella carne, che è l'abito intatto dell'anima, e così si rivestono di incorruttibilità. Ora, come la donna non sposata si occupa di Dio solo, e la sua cura non è scissa, e la sposata, quella casta, divide la sua vita tra Dio e il marito, mentre colei che si comporta diversamente appartiene tutta al matrimonio, cioè alla passione, ugualmente, credo, la donna casta, dedicandosi a suo marito, rende onore a Dio sinceramente. Se invece si interessa della cosmesi, si trova ad essere separata sia da Dio che dal matrimonio casto, barattando suo marito con gli ornamenti, alla maniera di quella etera argiva Erifile, che accettò l'oro come prezzo del caro marito. Perciò approvo anche il saggio di Ceo, che raffigurò, somiglianti e parallele, le due immagini della virtù e della malizia. Rappresenta la prima, la virtù, in un atteggiamento modesto, vestita di bianco e pura, ornata solamente di pudore. Tale deve essere la fede, virtuosa e pudica. Presenta invece l'altra, la malizia, vestita con un abito sfarzoso e tutta brillante di colori innaturali. Cammina e si atteggia con l'intento di sedurre, ponendosi come modello per le donne lascive. Chi dunque segue il Logos non prenderà familiarità con nessun turpe piacere. Perciò anche nel vestire è da preferire l'utile. Se il Logos dice nei Salmi per bocca di David, parlando del Signore, «Le figlie dei re hanno gioito per il tuo onore, alla tua destra sta la regina, adorna di abiti dorati e di manti orlati d'oro». Non intende la sfarzosità del vestito, bensì l'ornamento della Chiesa, la comunità di coloro che hanno ottenuto misericordia. Ornamento intatto, tessuto con la fede. E Gesù, colui che è senza inganni, risplende come oro nella Chiesa, insieme agli orli d'oro, cioè agli eletti. Ma se per le donne bisogna distendere un po' il rigore, si confezionino per esse abiti lisci e morbidi al tatto, non però ornati di fiorellini per compiacere la vista, come le decorazioni che si fanno nei disegni. Infatti la decorazione ottenuta con tintura si sbiadisce con l'andar del tempo e i lavaggi, nonché la tinta con le sue sostanze chimiche, logorano la stoffa dei vestiti e la rendono fragile, e ciò non va bene in relazione all'economia familiare. È davvero un gran cattivo gusto occuparsi con tanto zelo dei pepli e delle tuniche, delle camicie, dei mantelli di lana, dei palli e delle cose che, come dice Omero, avvolgono le vergogne. Provo veramente onta nel veder spendere tanta ricchezza per coprire le pudenda. L'uomo antico, che era in paradiso, si compose una copertura delle vergogne con rametti e foglie, e se oggi abbiamo le pecore che sono state create per noi, non dobbiamo però agire in modo insensato come le pecore stesse, ma piuttosto, guidati dalla pedagogia del Logos, rifiutiamo la sfarzosità del vestito dicendo «Voi siete solo peli di pecora». E se Mileto se ne vanta e se l'Italia se ne fa una gloria e i peli vengono custoditi sotto coperture di pelle e se la maggior parte della gente è impazzita dietro a queste cose, noi, almeno, non affanniamoci per esse. Vestiti sobri e vestiti lussuosi. Il beato Giovanni Battista disdegnò perfino i peli di pecora, perché avevano troppo il profumo del lusso, e preferì vestirsi con peli di cammello, ponendosi come esempio di una vita semplice e senza adulterazioni. Si nutriva di miele e di locuste, cibo dolce e spirituale, predisponendo così le umili e caste vie del Signore. Come avrebbe infatti potuto indossare un mantello di porpora colui che aveva rifiutato l'ostentazione della civiltà e si era ritirato nel deserto a condurre per Dio una vita nella pace della solitudine, rinunciando a ogni vano affanno, a ogni distorta moralità e a ogni piccolezza d'animo? Quanto a Elia, egli usava per vestito una pelle di montone e se la stringeva alla vita con una cintura di peli. Un altro profeta, infine, Isaia, era nudo e scalzo e spesso vestiva di sacco abito dell'umiliazione. E se vuoi prendere in considerazione anche Geremia, ebbene, questi aveva solo un perizoma di lino. Ora, come le membra di un corpo sano mostrano più chiaramente il loro vigore quando sono nude, così la bellezza dei buoni costumi manifesta il suo splendore quando non è avvolta in sciocchezze di cattivo gusto. Trascinare i vestiti, lasciandoli cadere giù fino ai piedi, è senz'altro un segno di ostentazione e diventa un ostacolo nel camminare. Il vestito, inoltre, come una scopa, raccoglie la polvere per terra. Neppure i danzatori imbastarditi che portano sulla scena la loro tacita perversione lasciano pendere le loro vesti fino a tal punto di tracotanza. Quantunque gli accurati ornamenti con cui si addobbano, la sollecitudine per le frange e i modi affettati con cui si atteggiano, rivelino il loro indulgere a una sofisticata meschina mollezza. E se qualcuno chiamasse in causa la tunica lunga del Signore, sappia che quel suo abito decorato con fiori variegati allude ai fiori della sapienza, alle variegate e immarcescenti scritture, alle parole del Signore che risplendono dei raggi della verità. È di un abito simile che anche lo Spirito, per bocca di David, nei Salmi riveste il Signore. Ti sei rivestito di lode e di magnificenza, avvolto di luce come di un manto. Pertanto, come nel confezionare i vestiti bisogna eliminare ogni stravaganza, così è necessario guardarsi dalla mancanza di misura anche nell'indossarli. Non va bene, infatti, che l'abito giunga solo fino a sopra il ginocchio, come si dice fosse costume delle ragazze spartane. Non è decoroso per una donna scoprire una qualunque parte del suo corpo. E a chi le dicesse «che bel braccio», potrebbe con molta dignità ed eleganza rispondere con queste parole: «ma non è di pubblico dominio». Oppure a chi le dicesse «belle gambe», rispondere: «ma appartengono solo a mio marito». O ancora: «che volto grazioso, ma è solo di chi mi ha sposato». Io voglio però che le donne caste non offrano neppure l'occasione di tali complimenti a coloro che li fanno andando a caccia di fini biasimevoli. Quindi ad esse è vietato non solamente di lasciare scoperte le caviglie, ma è prescritto che si coprano e si avvolgano il capo e si velino anche il volto. Non è infatti conforme alla legge di Dio che la bellezza del corpo diventi un'esca per catturare gli uomini, né è conforme al Logos che una donna porti un velo di porpora con il desiderio di attirare gli sguardi. Fosse solo possibile eliminare la porpora anche dai vestiti, così da non richiamare l'attenzione di chi guarda sul volto di quelle che li indossano. Queste donne, che per il resto del vestito utilizzano tessuto sottilissimo, fanno invece il velo tutto di porpora e così infiammano sentimenti licenziosi. E come dice quel verso del poeta, «la purpurea morte le ha afferrate», tutte prese come sono dall'agitazione dietro a queste sciocche e molli porpore. È per questa porpora che Tiro, Sidone e la regione che costeggia il mare di Laconia sono oggetto di invidia. Le loro tinture sono assai stimate, come pure i pescatori di porpore e le stesse conchiglie, poiché dal loro liquido nasce la porpora. Ma queste donne falsificatrici e questi uomini che sembrano donne sono in preda a una follia senza più misura nel mescolare persino ai tessuti più stravaganti le loro falsificanti tinture. Si fanno arrivare non più soltanto stoffe delicate dall'Egitto, ma anche dalla terra degli Ebrei e dalla Cilicia. Taccio poi dei tessuti di Amorgo e del Bisso, poiché il lusso ha ormai superato anche il vocabolario. Ciò che copre, credo, deve far vedere che ciò che è coperto è più prezioso di ciò che copre. Ad esempio, il tempio rispetto alla statua del Dio, l'anima rispetto al corpo e il corpo rispetto al vestito. Invece accade il contrario. Se di queste donne si mettesse in vendita il corpo, non si troverebbe chi lo pagherebbe più di 1000 dracme attiche, mentre esse acquistano un solo vestito per 10.000 dracme, dando prova così di essere esse stesse meno utili e meno preziose delle stoffe. Perché dunque ricercare le cose rare e lussuose invece di quelle comuni e semplici? Perché non capite ciò che è veramente bello ed è veramente buono. Le persone insensate, infatti, ricercano ciò che appare e non ciò che è. Sono come i matti, che credono nero ciò che è bianco.